Lezione 11. Genesi, capitolo 12, versetto 13. Imri na ahoti at, lema'an itav li ba'avurech, vehayeta nafshi biglalech. Genesi, capitolo 39, versetto 7. Waihi achar adevarim haelle, watissa eshet Adonav et eneha el Yosef, watomer shichva immi. Deuteronomio, capitolo 9, versetto 27. Zechor la avadecha le Avraham, le Itzhak, ule Yaakov. Al tefen el kishi ha'am adze, ve el rish'o, ve el chattato. 1 Re, capitolo 18, versetto 25. Vayomer Elihau l'invie a Baal, baharu lachem apar ha'ehad, va'asu rishona, ki atem Harabim, Wekiru Beshem Elohechem, Weesh Lo Tasimu.